Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiornata e benvenuti a Salva Danaio, buon inizio settimana a tutti i nostri ascoltatori. Siamo alla numero 30, oggi con il Sole 24 Ore, la nuova guida pratica con le istruzioni per l'uso per orientarci, questa volta in un settore che ci riguarda praticamente tutti, a meno che non abbiamo meno di 18 anni. In questa sala stamattina non ci sono molte persone fortunate in questo senso. Intanto buongiorno, saluto Rossella Cadeo del Sole 24 Ore, ciao. Buongiorno. Allora, parliamo dell'RC Auto, è un tema che abbiamo affrontato tante volte negli ultimi mesi, perché lo ricorderete bene, è scoppiata la questione del rincaro delle tariffe, che ha portato anche ad aprire un tavolo di confronto fra industria di categoria, cioè le compagnie di assicurazione rappresentate dall'ANIA, le associazioni dei consumatori e il Ministero dello Sviluppo Economico. Il tema è molto sentito fra gli automobilisti, che negli ultimi tempi si sono ritrovati a dover pagare un premio assicurativo aumentato notevolmente, a volte in maniera anche del tutto in attesa, e nella gran parte dei casi anche mantenendo un comportamento ineccepibile al volante, per cui oltre che disatteso, l'aumento per molti è stato ritenuto anche del tutto ingiusto, ingiustificato. Il Sole di oggi propone una serie di esempi che vogliono proprio dimostrare come in particolare per alcuni profili i rincari siano evidenti, anche se nelle medesime aree geografiche le compagnie a volte possono praticare offerte molto diverse. E poi, parlando di RC Auto, ci sono anche tante altre questioni da affrontare e che riguardano per esempio come il far valere i propri diritti con la compagnia. Vi ricordate anche la procedura di funzionamento dell'indennizzo indiretto quando il codice del consumo lo ha introdotto? Ne abbiamo parlato tanto a Salva Danaio, era il 2007, quella procedura che permette di far risparmiare un bel po' di tempo nella liquidazione danni. Allora, oggi mondo delle assicurazioni, in particolar modo legate alle auto a 360 gradi, vi racconteremo cosa spiega la guida del Sole 24 Ore. Vi ricordo che oltre a chiamare Salva Danaio questa mattina per esprimerci i vostri quesiti, la guida pratica vi dà anche l'opportunità di inoltrare le domande agli esperti, che oggi peraltro sono anche in nostra compagnia. Poi vi darò tutte le modalità appunto per inoltrare le domande al sito del Sole, le risposte domani sul quotidiano e a partire da mercoledì sul sito del Sole 24 Ore. 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi. Se volete ci potete scrivere al 349-238-6666 o all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Il dossier, l'assicurazione RC Auto, la guida pratica di stamattina, la coordinata Rossella Cadeo, che ho già salutato, ma insieme a lei hanno scritto molto il collega del Sole 24 Ore, Maurizio Caprino. Maurizio, buongiorno, grazie di essere tornato con noi. Grazie a voi, buongiorno. E Raffaele Pellino, esperto del settore assicurativo per il Sole 24 Ore, oltre che essere anche presidente dell'UCI, l'Ufficio Centrale Italiano, che è l'Ufficio Nazionale di Assicurazione per l'Italia per i veicoli a motore in circolazione internazionale, lo chiamano anche Mister Carta Verde. Pellino, buongiorno e grazie di essere tornato a Salva Danaio. Buongiorno a voi. Allora, i numeri, le modalità per intervenire ve le ho ricordate, altri numeri rapidamente. Il quadro di borsa stamattina è piuttosto positivo, l'Europa parte bene, questa settimana abbiamo dei rialzi che stanno toccando il punto percentuale a Parigi, a Francoforte, Londra più 0,8%, Milano guadagnava quasi un punto e mezzo, adesso vedo che ha completamente ridimensionato il suo rialzo, più 0,68% in questo momento a Piazza Affari. Stanno andando ancora piuttosto bene tutte le banche. Il miglior titolo è Monte dei Paschi, guadagna il 3%, bene Diasorin, più 2,30, non è una banca, fa altro, ma anche questo titolo fa capolino fra i migliori titoli, più 2 per il Banco Popolare. In conclusione l'aumento di capitale, probabilmente sulla scia del successo di questa operazione il titolo oggi brinda, STM più 2, Generali più 1,8, Mediolanum più 1,8%. In discesa il Telecom meno 1,31, fino ad un'ora fa era l'unico titolo negativo a Milano, adesso invece la lista si allunga, Lottomatica meno 1,11, Fiat Industrial meno 0,4, Finmeccanica meno 0,26 e nel Green Power meno 0,18. Euro su dollaro a 1,3552 per le tensioni in Egitto, il petrolio ancora corre stamattina sui mercati asiatici, che hanno riaperto dopo il capodanno cinese, quotava di nuovo sui $100 al barile. Lasciamo la borsa, andiamo al tema di oggi, RC Auto a 360 gradi oggi a Salva Danaio. Che fine ha fatto l'indennizzo diretto? A 4 anni dalla sua introduzione, il meccanismo attraverso il quale la denuncia di un incidente e la richiesta di risarcimento vengono indirizzate alla propria compagnia assicurativa e non più a quella di chi ha causato il sinistro, è ancora in vigore, dopo aver superato qualche ostacolo e numerose polemiche. La procedura di risarcimento diretto si applica però solamente in alcuni casi. Innanzitutto, l'incidente deve aver coinvolto soltanto due veicoli, entrambi identificati, regolarmente assicurati e immatricolati in Italia. Se uno dei due veicoli, o entrambi, è un ciclomotore, l'indennizzo diretto si applica solo se si tratta di un mezzo immesso in circolazione dal 14 luglio 2006, mentre a quelli già in circolazione prima di questa data si applica soltanto se abbiamo volontariamente aderito al nuovo regime. Se oltre alle cose trasportate e al veicolo sono presenti anche danni fisici, deve trattarsi di lesioni non gravi, cioè di danni alla persona con invalidità permanente non superiore al 9%. La richiesta di risarcimento deve essere consegnata a mano al proprio assicuratore oppure inviata mediante lettera raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica alla propria compagnia. Quest'ultima, in caso di richiesta incompleta, deve invitare il danneggiato a fornire entro 30 giorni le integrazioni necessarie per l'avvio corretto della procedura. Una volta completata la richiesta, la compagnia ha tempo dai 30 ai 90 giorni per formulare un'offerta di risarcimento che, se accettata dal danneggiato, viene saldata in circa 15 giorni. Ho detto assicurazione a 360 gradi, in realtà la nostra scheda l'abbiamo focalizzata di più sulla procedura dell'indennizzo diretto, che è uno dei tanti argomenti toccati dalla guida pratica delle Sole di questa mattina. Allora Rossella Cadeo, intanto prima di farci il biglietto da visita di tutti i temi toccati appunto dalla guida di oggi, magari ricordiamo ai nostri ascoltatori quali sono le modalità per inviare dei quesiti al sito delle Sole e quali sono gli esperti che sono stati messi a disposizione, ma li conosciamo mi pare abbastanza bene. Sì, gli esperti sono gli stessi che oggi sono qui in studio, che risponderanno alle domande degli ascoltatori. Invece per inviare i propri quesiti scritti si può accedere al seguente indirizzo internet: www.ilsole24ore.com/rc-auto si può scegliere uno degli argomenti o anche più di uno degli argomenti presenti nel modulo che apparirà online. Mm-mm. Compilando questo modulo, mandandolo, schiacciando semplicemente invio, noi riceveremo queste domande, le smisteremo agli esperti che risponderanno, e le risposte saranno pubblicate in parte domani, quelle che possono interessare un maggior numero di utenti, mentre saranno pubblicate mercoledì sul sito del Sole 24 Ore, saranno pubblicate integralmente. I lettori hanno a disposizione quattro filoni generali, lo leggo direttamente: l'andamento dei premi, i criteri per la scelta della polizza, le procedure per il risarcimento dei danni, le sanzioni per chi non si assicura e le vie per il ricorso. Peraltro questo aspetto di chi non si assicura è anche toccato in maniera abbastanza importante nell'ambito del primo pezzo appunto che compare sulla guida, perché scopre, leggendolo, non avevo una statistica ben chiara a tal proposito, che ci sarebbero ben 3 milioni di vetture che circolano in Italia senza copertura. Maurizio Caprino, questa è una stima recente, mi pare proprio confermata dal ministro dello sviluppo economico Romani. Sì, in un'audizione tenuta la settimana scorsa in Parlamento, lui praticamente ha tolto dal numero dei veicoli che risultano circolanti dagli archivi pubblici, ha tolto il numero delle polizze che risulterebbero attualmente accese all'Associazione di Categorie delle Assicurazioni, che è l'ANIA, e la differenza sarebbe di 3 milioni. Ora, questi archivi onestamente non sono il massimo dell'affidabilità, però sicuramente il problema esiste. Noi stessi al Sole 24 Ore l'avevamo tirato fuori quasi un anno fa, ora addirittura ci sono casi clamorosi come quello a Napoli di un'impresa di autotrasporto, anzi di trasporto passeggeri per essere precisi, che insomma mandava in giro per tutta Europa 6 pullman con 60 posti a sedere e senza assicurazione. Mi ci viene da ridere, Maurizio, ma c'è ben poco da ridere su situazioni di questo genere. Poi la commenteremo. Il tema è anche che, come appunto sottolineate anche questo tema tante volte affrontato da questi stessi microfoni, e che come spiegate bene sul Sole stamattina, ci sono seri indizi, dite, che l'attuale livello dei prezzi sia diventato insostenibile per non poche famiglie. Questo porta qualcuno a rinunciare appunto all'assicurazione, correndo i rischi che si sanno, ma qualcuno lo fa anche così, proprio in totale allegria. C'è anche l'altro tema: le compagnie che scappano da certi territori, Maurizio. Sì, assolutamente sì, questa è una cosa, una verità ormai ufficialmente conclamata, anche l'istituto di vigilanza che l'ISVAP lo ha certificato, ormai lo sta certificando da un paio d'anni, le compagnie trovano più facile scappare da determinati territori, cioè prendere quante meno polizze, prendere in carico quante meno polizze possibile e ritirarsi proprio come uffici di liquidazioni, quindi non solo il servizio poi al cliente peggiora, ma peggiora anche il contrasto delle frodi, che paradossalmente sappiamo proprio in quelle zone sarebbe particolarmente vitale, perché le frodi sono davvero tante. Infatti, tra l'altro l'ANIA continua a sostenere che è proprio quello il motivo principale che sta portando e sta provocando l'aumento delle tariffe. È uno dei motivi, non è il solo motivo, però sicuramente ci vorrebbe una risistemata tutto il meccanismo, in particolare il risarcimento diretto, in modo tale da limitare quelle deviazioni che ci sono state in questi 4 anni, e peraltro sono deviazioni che hanno riguardato anche il fatto che non è un meccanismo obbligatorio, c'è stata quasi 2 anni fa una sentenza della Corte Costituzionale che ha permesso di tornare al vecchio sistema, e questo ha creato ulteriori falle. Allora, poi, siccome questo è proprio il tema affrontato da Raffaele Pellino sul Sole, con lui ci torno dopo. Adesso vorrei fare un panorama con la nostra Rossella Cadeo dei profili che sono stati individuati. Praticamente avete chiesto ad una società di consulenza di individuare profili tipo e di verificare quali fossero appunto i premi pagati a seconda di determinate località. Che cosa avete scoperto, sì, Rossella? Sì, abbiamo chiesto a Yama, che è appunto questa società che è specializzata in rilevazioni e ricerche sul mercato assicurativo, abbiamo chiesto a Yama di individuare il premio minimo e massimo per 6 profili di guidatore, che sono dei profili piuttosto diffusi. Ricordiamo infatti che non esiste un premio unico per la polizza RC Auto, ma il premio è costruito sia su una vasta serie di parametri che possono essere aumentati, ampliati dalle compagnie stesse, quindi dall'età al tipo di macchina, alla professione della persona, agli anni della patente. Qualcuno arriva anche a calcolare la dotazione di punti sulla patente, e poi ovviamente il rischio è costruito in base al territorio. Quindi quello che abbiamo scoperto, la cosa più evidente, è questo ampio divario tra un premio, per esempio, costruito a Milano e un premio costruito a Napoli. Questo vale per qualsiasi categoria, per qualsiasi profilo, però raggiunge l'esempio più clamoroso, per l'uomo di 20 anni che alla guida di un'utilitaria, quindi di una macchina piccola, poco pericolosa, arriva a Napoli a pagare un massimo di oltre 4.000 euro, un premio che è molto, quasi il doppio, diciamo, di quello che paga a Napoli una persona che ha però 45 anni, che guida comunque un'auto più potente. Però vediamo nello stesso modo che sia a Milano sia a Napoli, sia in tutte le città che abbiamo considerato, sono 8 con rischi diversi, c'è una possibilità di pagare anche molto meno. Quindi allora magari poi hai suggerimenti per andare a cercare anche la tariffa che fa il caso nostro, quella più conveniente, quella migliore per noi, perché poi non è neanche detto che gli automobilisti cerchino solo ed esclusivamente di risparmiare. Qualche volta si cerca anche magari un buon servizio da parte della compagnia e si è disposto in certi frangenti, in certi casi, anche a pagare un po' di più. Ci dobbiamo fermare la prima pausa, poi cominciamo anche con le vostre domande all'800240024. Sentiremo di nuovo un riepilogo sul funzionamento dell'indennizzo diretto, abbiamo sentito anche nella nostra scheda, ma anche un po' tutti i meccanismi che magari sarebbero da sistemare e anche le, come dire, considerazioni degli ascoltatori su questo. A tra poco. Oggi Salva Danaio ritorna sulle guide pratiche del Sole 24 Ore. Quella di stamattina affronta a 360 gradi il tema dell'RC auto, con un occhio particolarmente attento al tema dell'aumento delle tariffe, di cui stiamo discutendo da tanti mesi. Abbiamo affrontato tante volte anche l'argomento a Salva Danaio, ma vedo che gli ascoltatori continuano a lamentare, pur avendo proposto di affrontare il tema RC auto a 360 gradi, quindi, che ne so, conflitto con la vostra compagnia, un incidente che non siete ancora riusciti a risolvere, non siete venuti a capo, come funziona l'indennizzo diretto. Invece la lamentela riguarda proprio l'aumento appunto delle polizze. Anche vedo qualche ascoltatore che denuncia aumenti a 3 cifre, ma insomma la conosciamo bene questa situazione. Prima di cominciare a sentire gli ascoltatori, andrei al nostro Raffaele Pellina, appunto, che è uno dei principali esperti del Sole 24 Ore su questo tema. Stamattina affronta soprattutto la pagina dell'indennizzo diretto, iter e tempi semplificati. Dottor Pellino, qual è il bilancio dall'introduzione di questa novità nel nostro ordinamento? Ricordiamo che è stato il codice delle assicurazioni che ha introdotto nel 2007, io prima ho detto quello al consumo, mi sono sbagliata, il risarcimento diretto, questa procedura che consente al danneggiato di essere rimborsato direttamente della propria compagnia. Beh, bilancio decisamente positivo, perché il numero dei sinistri regolati con questa procedura, opportunamente chiarito da Caprino come non obbligatoria, ma su questo torniamo, è decisamente molto elevato. Il problema è questo sistema, questa metodologia mirava soprattutto a valorizzare il rapporto tra assicurato e assicuratore, fatto nel momento della stipula del contratto e sperimentato in pratica nel momento dell'incidente. Questo risultato è certamente riuscito, perché l'utente ha avuto modo di apprezzare o non apprezzare il comportamento della propria compagnia. Il regolamento che ha armonizzato le norme, che ha organizzato il regolamento 254 del 2006 con DPR, il sistema prevedeva esplicitamente che da questo sistema dovessero derivare sul fronte delle tariffe benefici per gli assicurati. L'articolo 14 recita espressamente: il sistema di risarcimento diretto dovrà consentire effetti benefici per gli assicurati. Ipotizzava cose non ancora realizzate, per esempio ipotizzava ipotesi di clausole contrattuali con gestione, con il risarcimento in forma specifica del danno, nel senso che la compagnia poteva farsi carico attraverso una struttura non ancora completamente realizzata di carrozzeria fiduciaria eccetera, poteva farsi carico della riparazione. Questo non è ancora avvenuto, fa parte delle cose di cui parlava prima l'amico Caprino, dicendo va migliorato, ma certamente il sistema è un sistema che dà soddisfazione in tempi rapidi ai crediti degli assicurati, soprattutto quando si tratta, questo però va riconosciuto, dottor Pellino, di un incidente semplice, banale. Riguarda incidenti con danni a cose di qualunque entità, danni alle cose trasportate, lesioni al conducente fino al 9%, sono dal punto di vista numerico gli incidenti di massima frequenza. Infatti, quando quindi poi ovviamente sono quelli che segnalano, significano molto di più la bontà o della scelta fatta nel momento della stipula della polizza. Allora, andiamo alle domande degli ascoltatori e poi ritorneremo appunto sull'indennizzo diretto e anche sulla questione dell'obbligatorietà o meno, e anche se è facile, come dire, riconoscerla. Pellino, sì. Sì, sull'obbligatorietà io onestamente l'amico Caprino ha ricordato la sentenza della Consulta, ma qui non è un problema di obbligatorietà, secondo me, è un problema di bontà della scelta, nel senso che è giusto dare all'assicurato sulla scelta della procedura di indennizzo diretto. Grava anche un'altra occasione di risparmi per le compagnie, nel senso che se il danno è gestito bene, la somma offerta viene accettata, su quella somma non ci sono componenti per attività di patrocinio o di assistenza, che normalmente sulla massa dei risarcimenti erogati gravava per il 10%. Questo dovrebbe consentire ulteriore vantaggio per le compagnie da scaricare sulla tariffa. La non obbligatorietà è più che giusta, perché a un certo punto la Consulta ha detto: dobbiamo tutelare il danneggiato, e lo si tutela attraverso una libera scelta. Se nel crash, come lo chiamate anche sul Sole 24 Ore, se nell'incidente ci finisce di mezzo una terza persona trasportata, praticamente si può attivare lo stesso la procedura dell'indennizzo diretto per indennizzare questa terza figura, dottor Pellino? Certamente sì, perché il trasportato ha titolo per un altro tipo di azione, diciamo diretta, un'azione nei confronti dell'assicuratore del veicolo su cui è trasportato, e quindi certamente si può attivare la procedura di risarcimento diretto, indirizzando anche il trasportato verso il suo naturale soggetto debitore, che è l'assicuratore del veicolo su cui si trova trasportato. Poi spiegheremo quando non è mai possibile applicare questa procedura. Adesso cominciamo a sentire invece gli ascoltatori. E allora, si era prenotata da un bel po' Daniela da Treviso, che saluta all'800 24 00 24. Buongiorno, Daniela, buona giornata, ci dica. Buongiorno. Niente, mi è stata aumentata la polizza così impunemente di 80 euro. Quanto paga quindi l'anno? Ho chiamato e mi hanno detto che la compagnia ha deciso di mettere gli aumenti. Infatti rispondono praticamente, così. Praticamente, cioè, se vuole rimane, se no faccia quello che vuole. Io lo trovo talmente ingiusto. Lo so, lei è una brava autista, una brava conducente. Daniel, sì, ma sì, comunque sia, cioè io non ho fatto incidenti, niente, l'hanno aumentata così. E questo è un po' il tema del quale stiamo parlando da tanto, Daniela. Peraltro, Maurizio Caprino, effettivamente questo è un altro bel tema. Non è che la compagnia può informare con largo anticipo del fatto che comunque il prossimo premio che pagheremo subirà questo aumento. Non possiamo correre ai ripari in tempi anticipati. Ma assolutamente, anzi si va addirittura di più, perché prima uno dei giochetti che facevano le compagnie era proprio quello di informare, però rendere disponibile l'attestato di rischio, che è il documento fondamentale per poi poter andare da un'altra compagnia. Beh, questi lo rendevano disponibile solo su richiesta e all'ultimo momento, quindi uno rischiava anche di rimanere scoperto. Invece da 4 anni a questa parte è diventato obbligatorio comunque rilasciare l'attestato di rischio a ogni scadenza, e questo ovviamente crea una maggior facilità nel trovare una nuova compagnia. Un altro strumento per trovare una nuova compagnia è il preventivatore, che ormai dell'ISVAP, sì. Dell'ISVAP, che ormai è abbastanza decollato, è abbastanza, un servizio abbastanza consolidato. Lo trovate nel sito appunto dell'ISVAP, che è www.isvap.it, è messo abbastanza in evidenza in alto sulla sinistra. Si chiama Tuo Preventivatore il servizio. Esatto. Però attenzione, perché tutti questi preventivi si riferiscono al cosiddetto alla cosiddetta tariffa, che è diversa poi dal premio che voi pagherete effettivamente. Hai fatto bene a precisarlo, Maurizio, perché molti rilevano, e questo mi è capitato anche in puntate precedenti fatte, dopo aver parlato anche con la diretta responsabile, con la dottoressa Cavina, appunto, che ha allestito tutto questo meccanismo che è molto importante, rilevano proprio la differenza, la non congruità tra il preventivo fatto dal preventivatore e poi l'effettivo premio che vanno a pagare quando stipulano il contratto con l'assicurazione. Quanta differenza c'è? Può essere anche notevole, nel senso che dipende dai casi. Il preventivatore le tariffe intanto non se le inventa, cioè le prende direttamente dalle compagnie, quindi la fonte è più che ufficiale, più che affidabile. Però poi cosa succede? Che le compagnie utilizzano un altro strumento, che è la cosiddetta flessibilità tariffaria, per cui ogni agente, ogni loro punto vendita ha la possibilità di gestire particolari sconti secondo criteri che sono i più disparati. Purtroppo uno di questi criteri è il fatto che, come è stato denunciato anche nell'autunno scorso, a Napoli gli sconti stanno praticamente sparendo, a Napoli e in buona parte del sud, quindi c'è un'ulteriore discriminazione e comunque al di là di questo particolare, c'è da dire che il preventivatore serve soltanto per scremare inizialmente la clientela, ossia voi andate ovviamente a vedere quali sono le compagnie più favorevoli, che vi danno le condizioni più favorevoli nella teoria, e fra quelle però non vi fermate a quella più favorevole, mettete sempre a confronto quelle che comunque hanno prezzi abbastanza analoghi, perché in fase conclusiva del contratto qualcuna potrebbe farvi uno sconto ulteriore e quindi recuperare la palma della più conveniente, insomma. Allora, tra l'altro ci sono anche degli ascoltatori che tornano anche a chiederci quali sono le differenze fra le assicurazioni tradizionali, quelle che quindi si avvalgono di un rapporto con agente di assicurazione, che sono quelle che conosciamo di più, e quelle online, quindi le cosiddette compagnie dirette, come le banche dirette. Gianmarco, poi ci andiamo anche ad un po' di ABC su questo. Rossella, il preventivatore sono nati anche, adesso non ho visto bene se ne avete toccati anche, forse no, stamattina nella vostra guida pratica, anche tanti portali, diciamo, di natura privata, no? assicurazione.it, ce ne sono tanti altri, sì. Quindi un modo per fare dei preventivi c'è. Il problema però è che, per quanti preventivi possiamo fare, poi comunque le sorprese non mancano mai, come abbiamo avuto modo di vedere dalla nostra ascoltatrice. 80 euro in più, ma insomma, qual è un po' il suggerimento che si può dare per andare a cercare un po' di risparmio? Perché dicevamo anche prima, sì, non è detto che si cerchi solo di risparmiare sulla polizza, qualche volta si va anche alla ricerca del buon servizio da parte della compagnia. Assolutamente, non fermarsi solo al premio. Sì, come hai detto tu precedentemente, ci sono altri siti che offrono la possibilità di mettere a confronto le polizze, di fare appunto uno shopping come quando si va a comprare qualsiasi altra cosa. Vediamo più offerte prima di fermarci, e ricordiamoci anche che il cliente che abbia già un'assicurazione, una polizza, che si vede applicare un premio troppo elevato, ha diritto a lasciare l'assicurazione anche soprattutto se il premio supera il tasso di inflazione programmata, anche ad approssimarsi della scadenza, anche il giorno stesso della scadenza. Ricordiamo che la compagnia deve mandare 30 giorni prima per le polizze senza tacito rinnovo le condizioni di contratto e il premio che applicherà al rinnovo. Ricordiamoci quindi, perché questo l'avevo lasciato in sospesa prima, quindi almeno 30 giorni prima del pagamento del premio noi sappiamo già quanto aumento caricato. Ecco, se questo aumento lo riteniamo inaccettabile e ricevibile, ci conviene andare a guardare su questi siti, fare un po' di confronto e informarsi. E ricordiamo comunque di non fermarsi al premio, guardare anche tutte le clausole, soprattutto quelle di rivalsa, quelle di guida esclusiva, tutto quello che può voler dire un contratto completo. E guardare anche quali sono i servizi che può offrire l'assicurazione, la compagnia stessa, servizi che possono comunque garantire un buon call center, un centro riparazione, vedere per esempio se c'è uno sconto con l'applicazione dei dispositivi satellitari, se ci sono le polizze, se questa compagnia offre una polizza a consumo, una pay per use, magari guidiamo talmente poco che può essere conveniente effettivamente una polizza chilometrica. Anche Bagliano, una mia amica mi ha raccontato qualche giorno fa che lei utilizza questa opportunità, questa opzione, anche se poi appunto mi ha spiegato che prima di uscire deve telefonare un'ora prima alla compagnia, un'ora prima di uscire di casa, quindi ci sono poi anche delle modalità di comportamento che dobbiamo adottare che magari non fanno esattamente al caso nostro, magari è meglio tenere un'assicurazione tradizionale. Allora, ritorniamo alle domande degli ascoltatori. Vincenzo da Latina, credo, anche se le ragazze del centrale mi hanno scritto da Latino, chissà se non sia un altro. No, Latina. Vincenzo, cosa le è successo? Quindi così reinterpelliamo. Cerco di essere breve perché grazie. Io sono assicurato con una compagnia, se vuole posso anche fare il nome, ma non vorrei fare propaganda. No, non la facciamo, dai, ci racconti cosa è successo e sentiamo come si può risolvere. Io ho 63 anni, mai avuto un incidente, tutti i punti della patente e di più. Prima categoria nella prima classe, a parte l'anno scorso mi hanno aumentato senza avvertirmi e comunque il certificato di rischio è arrivato un mese dopo, non un mese prima. Ecco. Quindi non mi hanno dato possibilità alguna di fare un'indagine di mercato. Ma allora, sperando che sia un'eccezione, il minimo questo qua. Adesso, se mi consente, vorrei essere utile a spiegarmi meglio, no? Per la trasmissione. Allora, mi hanno tamponato un semaforo che era rosso. Io ero accodato dietro altre due macchine. E quindi mi hanno tamponato, mi hanno rotto il paraurti e via discorrendo. E ho chiamato la polizia perché chi mi ha tamponato non mi sembrava molto tranquillo, come poi si è dimostrato. È intervenuta la polizia municipale, ha rilevato l'incidente, dopodiché mi sono portato alla mia assicurazione, come si dice di questi tempi, che è la propria assicurazione che risarcisce direttamente. Ho fatto vedere i danni della macchina, quindi verbale delle ha fatto la multa. Avevate compilato il modulo di constatazione amichevole, il modulo blu, tutto a posto. Tutto regolare, signora. Vale. Prima, non solo, ma l'ho portata prima. Poi mi sono fatto fare il preventivo, ho portato il preventivo. Dopo Vincenzo, noi fra tre minuti devo chiudere la trasmissione, quindi Signora, insomma, Poi l'ho portato anche la macchina riparata e la fattura, anzi ho avuto una discussione con il carrozziere, ho fatto calare addirittura del 25% perché i lavori non erano fatti bene. Quando le è successo tutto questo, Vincenzo? Mi è successo, mi sembra, settembre-ottobre scorso. Ecco, ottobre. E ancora non ha visto niente dell'assicurazione, questo è il punto. No, potuto mettere l'avvocato e ancora stiamo così. Fermo lì, Vincenzo, già il fatto, Raffaele Pelino, di aver dovuto mettere un legale ci dichiara un po' il fallimento della procedura dell'indennizzo diretto in questo caso. Sarebbe stato un caso da manuale per la procedura diretta. Non è la foresta che cresce. Io trovo sconcertante quello che ci ha raccontato il nostro ascoltatore da Latina, perché in effetti ci sono una serie di inadempienze sia sul piano contrattuale, il ritardo nella comunicazione degli aumenti eccetera, sia nella gestione di questo danno. Naturalmente non mi limito a questa affermazione non conoscendo i dettagli. Resto a disposizione del lettore se vuole scrivermi per... Ma se tutto va regolarmente, entro quanto tempo la compagnia, se l'indennizzo diretto funziona? Ha presentato una richiesta di risarcimento diretto con un costami apro, con una situazione amichevole, con doppia firma, 15 giorni deve risolvere. Incredibile. Quando non è possibile in assoluto applicare... 30 giorni per l'offerta e 15 giorni per il pagamento. Ok, se tutto funziona regolarmente. No, le volevo chiedere. Non può non funzionare regolarmente. Certo, no, in questo caso mi sembra davvero un tamponamento, santo cielo. Ci sono fior di tutori della contro la violazione delle regole. Le sanzioni delle compagnie di assicurazione su questo tema sono incredibili. Basta consultare il bollettino dell'ISVAP. Quindi i ritardi nella comunicazione dell'offerta, la mancata offerta. Io ho visto sanzioni da 60.000 euro per sinistra da 2.000 euro. Sì, incredibile. Evidentemente considerano più come. È come un po' tutte le multe che vengono fatti gli operatori delle telecomunicazioni per le procedure, per le campagne pubblicitarie ingannevoli, cioè loro preferiscono pagare fior di multe piuttosto ma tartassare magari gli utenti con campagne pubblicitarie. Vabbè, questo è un altro tema, però insomma qualche volta è più addirittura conveniente pagare una sanzione piuttosto che accontentare magari centinaia di clienti. Qua che cosa possiamo affrontare adesso in un minuto di tempo che mi manca, Rossella? Non lo so, cosa abbiamo tenuto indietro, non riesco più neanche a sentire Maurizio Caprino oggi, veramente è volato il tempo a nostra disposizione. Ci sono anche le multe, mi pare, che avete affrontato nella guida di oggi. Visto che appunto abbiamo detto che sono 3 milioni circa gli utenti, che gli automobilisti senza che viaggiano senza assicurazione, ricordiamo che comunque è prevista una sanzione che è abbastanza pesante, che va da circa 400 a oltre 3.000 euro. E a questa sanzione si accompagna anche il sequestro del veicolo per una successiva confisca, quindi piuttosto grave, lo sappiano i 3.000. Ecco, esatto, i 3.000, ecco, ammettendo anche che tra questi ce ne siano un po' che non si possono assicurare perché non hanno i soldi per farlo, ma magari prendetevi una bicicletta, non lo so, i mezzi pubblici, cercate di fare qualcos'altro, ma non rischiamo, perché questo veramente comporterebbe delle conseguenze inimmaginabili. Ci fermiamo adesso perché abbiamo la nostra rubrica previdenziale. INPS, per saperne di più. Continuiamo la nostra collaborazione con l'INPS, che ci spiega le parole della previdenza. Il concetto di oggi è importo del trattamento minimo delle pensioni. Dal 1 gennaio 2011 l'importo mensile del trattamento minimo delle pensioni è di 467,43 euro mensili. Per determinare il diritto al trattamento minimo si tiene conto sia dei redditi del pensionato sia dei redditi di un eventuale coniuge. Tali redditi non devono superare determinati limiti stabiliti ogni anno dalla legge. Per quanto riguarda i redditi personali del pensionato, l'integrazione spetta se essi non superano 6.076,59 euro annui. In caso di redditi superiori fino a 12.153,18 euro, due volte il trattamento minimo, l'integrazione spetta in misura parziale, mentre oltre tale limite non si ha più diritto. Per i redditi cumulati con quelli di un eventuale coniuge, occorre invece tener conto della data di decorrenza della pensione. Il limite è di 5 volte il trattamento minimo per le pensioni liquidate nell'anno 1994 e di 4 volte per quelle con decorrenza successiva. E anche per oggi Salvadanaio termina qui. Avevamo veramente tantissime domande, ma visto che abbiamo l'opportunità di interagire con i colleghi del Sole 24 Ore, appunto con la guida pratica, tutte le vostre osservazioni le giro a Raffaele Pellino, a Maurizio Caprino e anche a Rossella Cadeco, ci aiuteranno appunto ad orientarci un po' in questo tema che vi piace sempre molto, un po' meno vi piacciono i rincari che stanno arrivando, ma temo che questo sarà ancora un tema del quale parleremo a lungo. Grazie a tutti per essere stati con noi, torniamo domani, buona giornata.